uomini che vengono ad ascoltare un libro sull'Italia delle donne, perché e anche all'editore, un uomo che si è avventurato in un tema interessante. Secondo me, per la mia opinione personale, forse per le donne non c'è mai troppo spazio. Magari per tante cose ce lo prendiamo, ma verissimo, lo spazio che conta poi alla fine si sfilaccia un pochino, no? Vediamo un po', sono argomenti magari già sentiti, già usati, però alla fine nella quotidianità ci perdiamo in tanti rivoli, siamo un po' schiacciate, e tutto sommato è un'amara considerazione che facevamo una mattina con delle colleghe in biblioteca. Anche sfogliando un quotidiano, no? Ti accorgi che le donne, insomma, non fanno niente di così importante. Anche quando fanno dei piccoli sondaggi in giro per la città per capire l'opinione su questo e su quello, alla fine ci sono sempre tanti uomini e le donne non ci sono, forse non hanno opinioni oppure svicolano. Quindi voi penserete che sono femministe, avete ragione, perché sono mamma di tre figlie e ogni tanto penso veramente che si fa molta fatica. Poi spezzo la lancia anche a favore degli uomini, perché senza di loro non sarebbe bello il mondo, non ci sarebbe una completezza. Quindi ecco, Cristian, stai tranquillo, ecco, guai se mancassero. Resta il fatto, una considerazione, che c'è ancora da vedere qualcosa, l'abbiamo visto anche in questa occasione nella preparazione delle lezioni, le liste, qua, le quote rosa, sì, no, insomma ci sono sempre tanti argomenti e non si riesce mai ad arrivare a una soluzione concreta. Io ringrazio sempre i nostri ospiti, questa sera sono molto contenta di questa occasione di conoscere Alida De Mani, l'autrice di questo libro L'Italia delle donne, di questa splendida opportunità di ascoltare da lei la sua esperienza, i racconti che ci farà, gli esempi che ha portato, che ha preso in esame. E ringrazio anche l'editore, perché è coraggioso, insomma, no? Portare avanti anche certe tematiche. La biblioteca organizza queste iniziative, non, purtroppo lo dico con un po' di amarezza, non nella sede più appropriata, che è la biblioteca, ecco, no? Cioè, un libro va presentato in una biblioteca o in una libreria, proprio perché è il suo habitat naturale. Siamo in questi anni un po' raminghi, giriamo per la città, ci piace, però effettivamente ci siamo resi conto che l'occasione di far conoscere un'autrice o un autore invita poi anche la persona a ritornare nel luogo, a prendere il libro, poi se lo va magari anche a comprare nella libreria, però poi torna nell'ambiente dove si è trovato bene e ha uno stimolo in più per iniziare un percorso di conoscenza da inventarsi da solo con l'aiuto dello scaffale della biblioteca o di un computer che gli fornisce tutta una serie di informazioni. Basta, io chiudo qui, se avete piacere. In fondo alla sala c'è un banchetto dove ci sono i libri a disposizione per chi ha piacere di comprarne una copia. Ci sono anche altri libri, perché organizziamo sempre una piccola bibliografia tematica, una vetrina legata all'argomento della serata. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e invito sempre tutti a tornare anche nella nostra biblioteca, che è via Mendola, e nella attesa di avere il polo bibliotecario. È un sogno che si realizza, si sta realizzando. Quindi, ecco. Grazie. A voi la parola. Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. Io sono Mauro Morellini, editore del libro di cui andremo a parlare, e sono molto contento di vedervi qui e voglio ringraziare Valeria Trevisan per l'ospitalità, perché effettivamente anch'io credo che la biblioteca sia il luogo dei libri ed è il luogo e l'istituzione che più di ogni altra ha modo di promuovere il libro sul territorio, quindi forse addirittura di più dell'istituzione scolastica, nel senso che la biblioteca fosse ancora di più in grado di compiere delle scelte trasversali, di bene o male inseguire anche la contemporaneità, quindi appunto catturando l'autore che ha appena pubblicato, comunque cercando di portare avanti incontri tematici su temi di attualità, e vedo che insomma la Biblioteca Augusto fa un lavoro importante, insomma nella vostra mailing list, conto la quantità di email che ricevo, vedo che fate veramente molte cose, complimenti, quindi sono particolarmente lieto di essere qui, credo che Alida condivida la mia opinione. È vero, sono un editore maschio, però è vero che la presenza di autrici femminili nel nostro catalogo è importante, sicuramente direi quasi schiacciante, non solo come autrice, anche ad esempio di titoli di narrativa, ma proprio perché ci sono intere collane dedicate alle donne che vanno dalla manualistica, con una collana che si chiama Pink Generation, fino a una collana di guide con un taglio femminile che si chiama appunto Guide al Femminile. Quindi diciamo che non è un'occasione casuale, una rarità nel nostro catalogo, ma sicuramente è quello del testo che più che ha maggiore, come dire, una simbologia più forte rispetto appunto alla visibilità da dare alle figure femminili. Ieri eravamo insieme al Museo delle Donne di Merano e sono rimasto colpito da una vetrina dove c'era il numero di donne vincitrici insignite del premio Nobel, che è effettivamente crescente nel corso dei decenni, si passa nelle varie discipline, cioè dalla letteratura alla medicina, al premio per la pace, si passa da, che ne so, 5 o 6 figure femminili negli anni 20, se non ricordo male, si arriva, mi pare, a 19 negli ultimi decenni, ma se si assommano tutte le donne che hanno avuto questo riconoscimento, penso che arriveremo a occhio, ho fatto un conto mentale, intorno alle 50 donne contro 909 maschili, questo nel XX secolo, quindi non in mezzo al Medioevo, insomma, in un periodo in cui teoricamente il ruolo della donna sta cambiando, viva Dio, però comunque anche nel Novecento la sproporzione è questa, 50 contro 900, cioè erano anche rappresentate graficamente, faceva abbastanza effetto vedere questa proporzione schiacciante. E sono convinto anch'io che, per carità, quote rosa o tentativi di riequilibrare la situazione possono essere importanti, però è qualcosa che evidentemente non arriva solo dall'alto, ma sta un po' al vissuto delle persone. E il ruolo di libri come questo è anche quello di porre l'attenzione delle persone dei simboli, perché le donne rappresentate in questo volume sono 70 ritratti di donne, poi entriamo più nel merito delle tipologie che Alida ha voluto narrare in questo libro, e in qualche modo sono degli esempi significativi, perché sono donne di grande passione, di grande coraggio, di grande tenacia, proprio perché evidentemente arrivare alla notorietà in campi come la letteratura, l'arte, la fotografia, l'imprenditoria, è comunque, sempre non per banalizzare, ma è comunque estremamente più difficile, che sia Grazia Deledda, che sia Artemisia Gentileschi, che sia un'imprenditrice, la Giannola Nonino, per una donna è effettivamente più difficile. Quindi vuol dire che in qualche modo le figure qui rappresentate hanno in qualche modo il doppio delle qualità, perché hanno dovuto scontrarsi sicuramente con difficoltà maggiori. È importante anche parlare di figlia femmina, perché io ho una figlia femmina, anche Alida si è ispirata in qualche modo alla figlia nel impostare questo libro, in quel modo per dare anche un po' una speranza, un esempio a chi già la difficoltà in generale, maschio o femmina che sia, di doversi far strada in un mondo come l'Italia oggi, sicuramente di difficoltà del approccio al lavoro e via dicendo. Per una donna è comunque, anche se sicuramente meno difficile oggi di quanto non fosse qualche secolo addietro, è comunque è sempre un pochettino più in salita, e sono molto banalmente, non credo che non esista un paese al mondo in cui il salario medio femminile sia identico a quello maschile, questo già la dice lunga, anche in paesi dove teoricamente c'è un ruolo della donna un po' più parificato, comunque c'è una forte distanza tra le rispettive retribuzioni. Io termino questo piccolo cappello, vi do soltanto una primissima chiave di lettura, che da una parte Alida ha scelto di dividere questa trattazione, chiamiamola così, le 70 figure trattate in tipologie molto diverse tra loro, perché abbiamo tipologie che sfociano nel mito, quindi abbiamo la Madonna romana, abbiamo le sibille, le sante, abbiamo le ninfe, ma arriviamo poi a tempi più recenti in cui abbiamo le scienziate, quindi figure come ovviamente Rita Levi-Montalcini piuttosto che Margherita Hack sono rappresentate da un cuoco, sommelier, imprenditrici. Abbiamo tutta la parte legata all'arte, quindi abbiamo pittrici, abbiamo scrittrici, e quindi sono veramente molte tipologie che in qualche modo attraversano i secoli, forse con un occhio un pochettino meno concentrato sulla contemporaneità, perché ovviamente è sempre molto difficile scegliere le figure di riferimento sul contemporaneo. Gioco forza tenendo fuori anche delle figure importanti, perché comunque si è dovuto necessariamente fare una scelta. E l'altra chiave di lettura che vi do è che Alida è molto appassionata di territorio, ha insegnato geografia umana per molti anni, la vedo molto appassionata anche in questi giorni che è venuta in Alto Adige, devo scoprire i posti, quindi comunque le occasioni di spunti di gita, anche non necessariamente anche spunti, come dire, più goderesi, più mondani, sicuramente mi sono reso conto che non mi disdegno affatto, e ho voluto fare la stessa cosa in questo libro. Cioè, alla fine di ogni profilo, nel raccontare la figura di donna, ha parlato anche del rapporto con un territorio, il territorio dove è cresciuta, e ha concluso offrendo degli spunti di visita, degli spunti di viaggio, di weekend, ad esempio, che ne so, sulle terre di Matilde di Canossa, piuttosto che nel territorio della Grappa Nonino. Quindi ogni volta ispirandosi a un museo, una casa d'artista, eccetera, eccetera. Quindi comunque c'è anche una parte pratica per chi vuole partire da una figura magari particolarmente ispiratrice e andare a ripercorrere i luoghi che, dove è cresciuta e che l'hanno ispirata. Quindi passo la parola ad Alida, che appunto ci racconta come è nato questo libro e come ha preso forma via via. Va bene, è stata una presentazione ottima. E faccio proprio un secondo un ringraziamento a Morellini, perché quando io ho mandato questo libro era solo un indice e lui ci ha creduto, e quindi eccoci qua, quindi un grosso ringraziamento. Insomma, tu hai già detto molto. Comunque volevo dire che questo libro è nato un po' da una triplice spinta, innanzitutto perché appunto io sono madre di una giovane donna che si è laureata, che è stata disoccupata a lungo, che ha fatto i soliti stage non retribuiti, e quindi mi sono sentita un po' in dovere di incoraggiare le giovani che io poi ho frequentato per più di 20 anni, perché ho insegnato nelle scuole superiori e soprattutto in la geografia umana e in corsi di studio molto femminilizzati, perché sono un po' a ghetto, tipo il turismo, il segretariato d'azienda. Quindi ho sempre avuto questo contatto proprio diretto con le giovani donne, e questo sicuramente mi ha influenzato molto. Diciamo che io ho vissuto gli anni 70, gli anni delle grandi conquiste, gli anni delle grandi battaglie, e quindi questo ha lasciato in me una passione che forse non si sopirà mai, insomma, mi ha lasciato proprio qualcosa, come dire, nel DNA, e quindi un altro omaggio alle donne doveva essere dato, perché negli anni 70 le donne sono state protagoniste di grandi battaglie. E poi, per chiudere, accennava Mauro che io questa passione per la geografia, intesa non nel senso studiamo le capitali a memoria, le fonti e le sorgenti dei fiumi, ma studiamo il paesaggio, studiamo la storia, studiamo i segni dell'uomo, e quindi insomma il tema del viaggio e della geografia o delle geografie al femminile doveva esserci. E quindi è nato questo libro, ho incontrato l'editore ed eccoci qua. Come diceva Mauro, le donne sono 70, potevano essere 100, 200, molte di più. Ovviamente ho dovuto rinunciare ad alcune figure per motivi ovvi, potete immaginarlo. Però queste donne, pur essendo molto diverse fra loro, sono unite da un filo rosso, da un fil rouge, che è quello a cui si accennava, che è il coraggio, la determinazione, la sensibilità nell'affrontare il mondo e le cose del mondo, e affrontando i mille ostacoli che si pongono in tutti i secoli, in tutte le latitudini, i mille ostacoli che si pongono di fronte a una donna, perché essere donna, inutile che io lo ribadisca e che sia noiosa, ma sapete tutti che è un po' difficile. Ci sono donne famose, erano imprescindibili, dovevo metterle, la Lucrezia Borgia, la Margherita Hack, insomma donne che tutte conosciamo. Però poi la cosa che più mi ha appassionato facendo le ricerche per scrivere questo libro sono state le donne, almeno per me, meno famose. Vi faccio solo un paio di esempi. Non so se voi conoscete Maria Gaetana Agnesi, non l'avete mai sentita nominare, neanche io l'avevo mai sentita nominare, eppure era di Milano. È una matematica del Settecento che ha smentito, perché questo anche è molto bello, smentire i luoghi comuni, il luogo comune è che le donne sono brave a scrivere e gli uomini sono bravi in matematica e nelle scienze. Bene, lei già nel Settecento si è laureata in matematica, ha insegnato all'Università di Bologna, ribadisco nel Settecento, ha avuto la cattedra di matematica e ha scritto un compendio di algebra che poi è stato adottato in tutte le università europee. Quindi mi è piaciuto anche proprio insistere e mettere queste donne, ripeto, sconosciute, eppure che hanno avuto un ruolo fondamentale. Come si diceva, il libro inizia, diciamo un po' cronologicamente, con l'antichità, le vestali che custodivano il fuoco sacro del Tempio di Vesta, che però dovevano essere assolutamente vergini, se non nel momento in cui non lo fossero più state venivano uccise, quindi c'è anche tutto questo risvolto, anche qui insomma non molto piacevole, pur ritenendo le donne di potere per l'epoca, perché custodire il fuoco sacro voleva dire era un ruolo importantissimo, però poi nel privato c'era appunto questa rinuncia all'amore. E, oppure le insomma, e poi via via nella storia, il Rinascimento, anzi ancora prima, visto che avevi accennato a Matilde di Canossa, ci sono personaggi importantissimi femminili del Medioevo. E il Medioevo è stato un secolo buio per le donne, buissimo. Eppure ci sono state figure come Matilde di Canossa, che è stata una politica eccezionale, ha condotto alla morte del marito un ducato che si estendeva in mezza Italia, e ha saputo farlo con guerre, ovviamente era quello il periodo storico lo richiedeva, ma anche con grande capacità diplomatica. E adesso, come tu dicevi, girare per le terre matildiche, più o meno a cavallo della provincia di Reggio Emilia, Parma, eccetera, è veramente un'esperienza molto, molto bella, anche appunto dal punto di vista del viaggio, perché ci sono tutti questi suoi castelli dove lei ha vissuto, tutte le pievi, questi piccoli borghi dell'Appennino, e quindi insomma c'è questo côté un po' geografico. E, stavo dicendo, lei è stata una politica eccezionale nel Medioevo, così come nel Medioevo è stata una politica eccezionale Eleonora d'Arborea, che anche lei è pochissimo conosciuta, forse Matilde di Canossa per l'episodio di Canossa, no? Se si lega un episodio storico che c'è nei libri di storia, allora si ricorda, ah sì, Margherita di Canossa, quando Enrico IV è stato 3 giorni fuori dal suo castello a aspettare che il Papa lo ricevesse, e poi è andato a Canossa. Però voglio dire, al di là di questi episodi, poi non si conosce la storia di queste donne, così come per Eleonora d'Arborea, al di fuori della Sardegna non è così nota, mentre in Sardegna è un mito, e lei nel 200 ha scritto una costituzione che è giudicata la più importante costituzione del periodo, di circa 200 più o meno, poco meno forse, articoli, che si chiama la Carta dell'Ovu, la Carta del Popolo, e praticamente veniva un insieme di leggi per la società, e anche qui la donna incredibilmente viene contemplata, si parla di divorzio, si parla di stupro, se voi pensate nel 200, e poi c'è proprio la dichiarazione, uno di questi 200 capitoletti, non so come chiamarli, parla proprio dell'uguaglianza di fronte alla legge di tutti, quindi si dice di tutti, delle donne e degli uomini, no? E quindi diciamo, adesso faccio una piccola polemica. Sono un po' arrabbiata perché io ho dovuto, come vi dicevo, contenermi e mettere 70 donne, In novembre scorso è uscito il libro di Bruno Vespa, che ci ha anche un po' copiato, a parte che non l'avrà scritto lui, e Le donne d'Italia, e lui ha potuto scrivere 450 pagine invece che 250 e mettere tantissime donne, però le politiche che ha messo lui sono le politiche del ministro Renzi, del ministro, scusate, ma la Boschi, eccetera, poi uno adesso ha dovuto dimettersi, eccetera. Quindi invece le mie politiche sono un po' diverse, sono queste che vi ho raccontato, oppure sono le donne resistenti, le donne, le 21 costituenti che hanno scritto la nostra Costituzione, di cui nessuno parla male. È vero che gli uomini che l'hanno scritta erano 400, ma c'erano pure anche queste 21 e non se ne parla mai. Il ruolo delle donne nella resistenza è sempre stato veramente oscurato, proprio solo ultimamente, perché ci sono questi anniversari, quest'anno il 70° anniversario del voto alle donne, allora un pochino se ne parla, se voi guardate anche su internet, l'ANPI pubblica qualcosa, ma sono stati i partigiani stessi a non riconoscere il ruolo delle donne, perché ad esempio quando nel 1946 c'è stata la sfilata per la liberazione a Milano, le donne non hanno partecipato, non hanno potuto sfilare, perché il popolo non avrebbe capito. Quindi insomma, questo per rilanciarsi anche a quanto si diceva prima, la storia veramente in ogni momento cercando di offuscare i ruoli al femminile. E è un peccato, perché per restare ancora un attimo in questo periodo storico delle costituenti, ci sono figure eccezionali, cui dobbiamo moltissimo senza saperlo. Mi riferisco ad esempio alla senatrice Lina Merlin. Ieri ad esempio a Merano una signora, e la capisco, non sapeva neanche che fosse una donna, perché si dice la legge Merlin, poteva essere anche Giuseppe, invece è Lina Merlin. E ha messo anche che la si conosca, la si conosce per la legge che ha chiuso le case chiuse, e tutto finisce lì. Invece Lina Merlin è stata una donna eccezionale, che si è battuta, una femminista antelitteram, che si è battuta per l'uguaglianza delle donne, e è stato proprio merito suo se nel terzo articolo della Costituzione, dove si dice della pari dignità di tutti i cittadini di fronte alla legge, lei ha proprio voluto che fosse aggiunta la dicitura senza distinzione di sesso, altrimenti questo non sarebbe stato scritto nella nostra Costituzione. Poi si è battuta appunto per le donne del Polesine, perché lei aveva, per il Partito Socialista, si occupava di quella zona, era stata molto colpita dalla povertà di queste donne, che addirittura alcune dovevano prostituirsi perché non riuscivano ad andare avanti la famiglia. Quindi colpita da questa povertà estrema di cui le vittime massime erano proprio le donne, allora ha fatto grandi battaglie in Parlamento. Ha fatto battaglie in Parlamento per le donne lavoratrici, per le madri lavoratrici, e grazie a lei se nel 63 le donne hanno potuto entrare in magistratura, 1963, non 800, perché le donne magistrato non erano affidabili, perché per 5 giorni al mese non erano razionali, quindi non potevano entrare in magistratura. E quindi diciamo, è stato un intervento che ha ricordato che fino al 1990 non era possibile esercitare, per lo stesso motivo, la professione di giudice. Di giudici, sì, è abbastanza sì. Sorprendente. È sorprendente, perché noi queste cose le dimentichiamo, ma in realtà basta scorrere un po' anche la parità nel diritto di famiglia, cioè sono cose incredibilmente recenti, frutto appunto dal dopoguerra agli anni 70 e fino alle ultime leggi sullo stalking, eccetera, ma è stato un percorso faticosissimo che ha richiesto un dispendio di energie, soprattutto femminili, all'interno delle dove risiede il potere, ecco, che sia poi un'azienda piuttosto che il Parlamento, ha richiesto un dispendio di energie, una tenacia incredibile, oltre ovviamente a patimenti per chi è stato al confino. Lidia Ravera si è fatta 10 anni di confino, mangiavano 150 grammi di pasta al giorno e nient'altro, e i fichi d'India. Però anche qui ti ricordi che ne abbiamo già parlato, quando Renzi è andato a Ventotene, a Ponte Ventotene, un paio di mesi fa, per ricordare Spinelli e l'Europa, eccetera, eccetera, ha ricordato tutti, lì c'era Terracini, lì c'erano, ha ricordato tutti gli uomini, ma lì c'erano anche le donne, e la Ravera è stata l'ultima a lasciare Ponza insieme a Terracini, però chi lo sa, niente, non conta. E quindi insomma è così. Ti interrompo un attimo, interrompo il flusso e torniamo su questo aspetto battagliero. Volevo un attimo però tirare fuori un altro cotè che tu citi giustamente spesso, che invece è cotè personale, cioè che bene o male in tutte queste figure comunque si è riuscita a evidenziare anche degli aspetti interessanti, se vogliamo appassionanti, delle vicende personali, incluse anche la fragilità, ma la fragilità espressa in maniera molto umana. Sì, sì. Ecco, un'altra cosa che mi ha interessato molto in questo percorso, perché vi ripeto, quando io mi sono messa a scrivere questo libro è stato un po' una valanga, un fiume in piena, trovavo cose sorprendenti che io non conoscevo e quindi mi sono appassionata e è uscito questo. No, si diceva che le donne appunto hanno sempre avuto molto coraggio, soprattutto negli ambiti appunto, come abbiamo visto, nella politica piuttosto che in altri ambiti, che in quelli del lavoro. Però poi sul piano personale spesso hanno pagato, no? Hanno pagato questo loro coraggio e hanno anzi mostrato tutta la loro fragilità. Parlavamo ieri, per esempio, della Montessori, ecco, la Montessori, grandissima figura, tutto il mondo ce l'ha invidia come pedagogista. Lei è stata la prima donna che si è laureata in neuropsichiatria infantile, no? E la prima che si è interessata dei bambini, quelli che i bambini una volta venivano definiti deficienti, proprio deficienti ai suoi libri. Questo bambino è deficiente perché gli aspetti cognitivi, insomma, non si trascuravano, era deficiente, basta. Lei ha studiato questo e si è laureata in psichiatria infantile e poi ha iniziato a girare tutta l'Europa, perché poi era chiamata ovunque per il suo metodo, insomma il metodo Montessori, lo sapete, ha rivoluzionato la pedagogia. Eppure io, leggendo la sua biografia, ho trovato in lei una donna fragilissima, no? Detta così sembra una roccia, invece poi, se si guarda le sue vicende personali, lei si era innamorata di un giornalista, innamorata follemente, lui non aveva mai voluto sposarla, poi avevano avuto un figlio ovviamente fuori dal matrimonio e lei non ha avuto il coraggio di riconoscerlo. Appena è nato il figlio lui se n'è andato, lei non ha avuto il coraggio di riconoscerlo, l'ha dato a una famiglia per 14 anni, poi l'ha preso con sé dicendo che era suo nipote e poi quando lui ha compiuto penso sui 25 anni, allora dopo ha detto che era suo figlio, anzi lui poi è stato sempre a fianco della madre. Per cui fragilità estrema anche in una donna forte. Lo stesso vale per esempio per le scrittrici. Voi ricorderete che Elsa Morante, che è considerata una delle più grandi scrittrici italiane del Novecento, ha avuto una lunga relazione con Moravia. Una relazione che l'ha arricchita tanto, perché hanno frequentato i salotti dell'intelligenza dell'epoca, perché poi Moravia era Moravia, insomma, quindi un stimolo intellettuale a destra e manca, però poi il rapporto non è che è andato tanto bene. Poi Moravia si è innamorato di Dacia Maraini, l'ha lasciata, lei è entrata in una crisi profonda, ha tentato il suicidio, poi si è ripresa, però ha sempre poi oscillato un po' tra questa voglia di affermazione. Lei sapeva di avere talento, glielo riconoscevano universalmente, quindi l'autostima ce l'aveva, però dal punto di vista personale questo l'ha segnata profondamente e non è certo stata una donna felice, ecco. E di esempi così se ne trovano tante, la Masina stessa. Insomma, non deve essere stato facile essere la musa, la moglie, l'amante di uno personaggio come Fellini. L'ha sempre tradita, lei lo sapeva, ha avuto un'amante fissa per una trentina d'anni, eppure la sua Giuliettina gli diceva che era la sua musa, però insomma, così. Ci sono anche le innamorate che sopportano tutto. Beh, forse magari con due parole magari anche su Alda Merini, che è un'altra persona. Beh, ecco, ad esempio noi milanesi siamo molto molto affezionati ad Alda Merini. Lei è proprio l'esempio classico della donna che vive per la poesia, che ha vissuto per la poesia, ma che è stata molto molto sfortunata, no? Lei è nata in una famiglia non particolarmente ricca, all'inizio le fanno fare le scuole professionali perché così può guadagnare subito, aiutare la famiglia, fa le scuole professionali suo malgrado, ma già a 17 anni scrive poesie e inizia a inviarle ai giornali eccetera e viene riconosciuta come una brava giovane poetessa. Quindi si innamora di un intellettuale, e trascorre alcuni anni felici, poi però mi la lascia, guarda caso, forse lei non era già molto stabile, io non lo so, fatto sta che lui la lascia e lì c'è il crollo e inizia veramente la sua fragilità, presa dalla precarietà economica, sposa un operaio, un bravo uomo, lo definisce lei, un gran bravo uomo, che però non c'entrava niente con la poesia. E farà tre figlie con questo signore, lui si ubriaca ogni tanto, una sera torna più ubriaco del solito, c'è una lite, lei tira qualcosa, lui viene un po' ferito, insomma lì praticamente la goccia che fa traboccare il vaso inizia questo percorso, entra e esce dal manicomio, però la poesia, voi lo sapete, non la terrà in vita, perché altrimenti sarebbe stata persa, insomma, poi nei manicomi dell'epoca, sia Milano che Taranto, resta anni e anni in manicomio. E adesso a Milano, la casa dove lei ha vissuto sui Navigli, le hanno dedicato una fondazione, non so se è proprio una fondazione, si chiama Casa delle Artiste, è molto carina perché c'è il suo muro dove lei scriveva con rossetto i numeri di telefono, hanno ricostruito, hanno anche riallestito il suo letto, ma al di là di questo, che è una testimonianza che commuove, tengono corsi di poesia, soprattutto dedicati ai giovani, quindi insomma lei sarebbe stata contenta di questa cosa, quindi anche visitare questa casa che poi appunto è lungo i Navigli. Quindi noi andremo a maggio, vero? A mezzo maggio. È molto molto bella, molto, insomma, se piace la Merini e ci si commuove anche andando nella sua casa. Ho detto nella premessa che non hai messo la lente di ingrandimento sulla contemporaneità, ma che hai selezionato alcune figure, voi dal mondo dell'alta cucina, voi dal mondo dell'imprenditoria e della moda. Se ti va un po' di raccontare le motivazioni delle tue scelte, magari una o due di queste figure della contemporaneità. Sì, ecco, per quanto riguarda le contemporanee, come si diceva giusto ieri, io sono stata un po' in dubbio se metterlo o no, perché ero un po' intimorita, non sapevo se potesse dar loro fastidio, non me la sentivo tanto di affrontare la contemporaneità, poi ho deciso di farlo e di scegliere un filone particolare, che è quello delle donne imprenditrici. Sempre per quello che si diceva prima, non per essere noiosi, ma l'autostima, tutto passa dal lavoro, se non si ha il lavoro non ci sono le basi. E quindi mettere delle donne di successo nel campo del lavoro, delle imprenditrici, mi è sembrata la scelta più giusta. Le ho chiamate anche illuminate perché sono imprenditrici che hanno comunque una sensibilità tutta al femminile per la cultura, per l'arte, eccetera. Quindi non sono solo proprio le capitane di industria che stanno 12 ore in fabbrica e poi non fanno null'altro. E ho scelto di mettere, per esempio, delle donne nel campo dell'enogastronomia. Perché sapete che uno dei settori che va più di moda, anzi fin troppo di moda, è il cibo italiano tutti i giorni. Allora, se vogliamo fare un paio di esempi, possiamo parlare delle sorelle Nonino, non so se sapete della grappa Nonino. La grappa Nonino è la più famosa grappa in giro per il mondo. Se andate a New York, a Londra, nei bar, eccetera, nei ristoranti chic, dove io non vado, non so che c'è. La grappa Nonino è il non plus ultra dell'italianità. E la storia di queste imprenditrici è veramente interessante, perché la grappa era considerata il cuore dei poveri, ai contadini venivano date le vinacce di scarto, distillavano la grappa per la famiglia, quando faceva freddo se la strofinavano, quando avevano fame la bevevano, era proprio il liquoraggio. E invece le donne Nonino hanno capito che la grappa poteva diventare un must nel campo dei liquori e hanno avuto l'intuizione. Ma perché parlo sempre di donne? Perché in realtà la loro impresa è tutta femminile. Giannola è la mamma e poi ci sono le tre sorelle, le tre figlie di Giannola, e dicevo, loro hanno intuito, Giannola per prima, la madre, che la grappa, se si faceva di moda mono vitigno poteva veramente acquistare pregio e qualità. Quindi hanno scelto un vitigno della zona di Percoto, nell'Udinese, e il Piccolite, hanno fatto per la prima volta nella storia la grappa di mono vitigno, che sembrava una follia, tanto che nessuno le ha comprato la prima produzione, hanno dovuto regalarla. Poi però testate, sono andate avanti e sono arrivate ad avere l'impero che hanno. E quindi questo fatto di questa imprenditoria femminile così legata al territorio mi è piaciuta tantissimo, anche perché loro poi hanno istituito un premio di letteratura internazionale, che è veramente molto molto importante a livello internazionale. Arrivano i principali scrittori del mondo, vanno fino lassù sulle Alpi, e cioè io trovo questa attenzione alla cultura e alla terra e alle proprie radici non più ultra, e penso che sia veramente una sensibilità abbastanza femminile, anche maschile per carità, però l'ho ritrovata in moltissime donne. L'altra donna, se vogliamo poi concludere con me, con l'enogastronomia, no, mi dà fastidio perché tutti i cuochi sono maschi. Se voi guardate la TV, tutti i maggiori cuochi sono maschi, se guardiamo chi ha le stelle Michelin, il 90% sono reti da chef, super chef maschi. E invece io mi sono chiesta se non doveva esserci per caso una donna a questi livelli, che magari non appariva in televisione proprio perché era una donna, o magari perché non voleva lei, perché le donne a volte sono più riservate, meno sfacciate, e in effetti l'ho trovata, non che io la conoscessi prima, e lei è la signora Santini ed è giudicata la cuoca più importante d'Europa, più o meno la mia età, insomma non è una proprio giovane giovane. E lei gestisce insieme alla sua famiglia un ristorante sull'olio che si chiama Pescatore, nel parco dell'Olio Sud, nella provincia di Mantova, un posto bellissimo paesaggisticamente. E ha iniziato rilevando, lei ha studiato tutt'altro, poi ha lasciato l'università, si è innamorata, perché poi ci sono sempre queste storie d'amore. Si è innamorata, ha lasciato l'università, non si è laureata, e insieme al marito ha rilevato l'osteria che faceva pesciolini fritti e vendeva vino sfuso del suocero, del padre del marito. E da lì, certo, erano gli anni 70, quindi sono passati parecchi anni, però già dal 96 il suo ristorante ha ottenuto le 3 stelle Michelin ed è l'ultimo che è l'unico che le ha mantenute fino ad oggi. E quello che è interessante di questa signora, per ricollegarci a quello che dicevamo prima, è che anche lei è molto legata alla sua terra. Quando nessuno parlava di chilometro zero, di prodotti naturali, perché adesso allora non vale, lei ha proprio capito che era quella la strada da imboccare. Va bene, facciamo un ristorante elegante, facciamo una location meravigliosa, mettiamo le tovaglie di Fiandra, però non buttiamoci sull'esotico, sullo strano, sulla nouvelle cuisine che andava di moda. E lei ha fatto proprio questa cucina legata al territorio e coltivano tutto l'orto lungo l'olio e coltivano i loro prodotti e hanno avuto questo successo strepitoso riconosciuto lì con le 3 stelle che non hanno mai perso da 20 anni. E quindi insomma anche la signora Santini è una bella figura di donna imprenditrice che ha saputo tenere fede alle sue radici, però si è buttata. Va detto che Alida è tenuta per contratto a parlare di Nadia Santini ogni presentazione, perché quando le ha spedito una copia del libro, io ho Nadia Santini si è commossa e ha detto venga da me a mangiare quando vuole, visto che si viaggia sui 200-250 euro. Non sono ancora andata, ma andrò. Come si chiama? Nadia Santini. Nadia Santini è ristorante il pescatore Cannelli sul Nord. Effettivamente sei per i primi 5-10 sì. Effettivamente. E le sorelle Nonino mi hanno mandato delle bottiglie di grappa. L'editore dovrebbe avere una percentuale, ma la grappa è lasciata stare. E, no, volevo un pochettino chiudere questa carrellata, poi magari lasciamo anche lo spazio a voi a qualche domanda. No, perché sennò vi racconto tutte le dopo diventa troppo, però appunto noi fin qui abbiamo raccontato delle figure emblematiche per i vari settori. quindi abbiamo la Montessori come grande pedagogista, abbiamo appunto Nadia Santini come grande chef, però come sempre nella storia ci sono i grandi nomi e poi ci sono i nomi anonimi, i militi ignoti, quelli che fra virgolette non fanno la storia, almeno di cui non viene riconosciuto il nome. E effettivamente però Alida ha pensato bene di dedicare dei capitoli anche a questi, chiamiamoli nomi collettivi. Ce ne sono diversi nel corso del libro, ci sono ad esempio tutto un capitolo sulle streghe, per cui anche le streghe della Val Serentino. Mi sono permesso di incuriosire Alida sul personaggio di Margherita del Tirolo, proprio perché secondo me è un personaggio che potrebbe molto appassionarla. Ci sono ad esempio le ragazze in bikini più famose del mondo, che sono riferite evidentemente agli affreschi di Piazza Marina. E ecco, in particolare c'è un capitolo da questo punto di vista, proprio della storia vista dal basso, che si chiama Le Popolane, in cui i paragrafi di questo capitolo sono le filatrici, le mondine, le merlettaglie, le lavandaglie e le gattare. Quindi volevo sapere, mi sembrava anche bello parlare un attimo di questi, appunto, questi nomi collettivi, queste donne anonime nella loro singolarità, ma che comunque hanno rappresentato molto, in particolare mi viene da dire le mondine, nel momento in cui effettivamente si è arrivato all'emancipazione della donna, credo che sia stato un momento molto forte, un momento di collettività molto importante. Sì, sicuramente, perché il capitolo precedente è le aristocratiche, e allora parlare delle aristocratiche è abbastanza facile. Hanno avuto la fortuna di nascere nobili o grandi borghesi, perché ci sono anche le grandi borghesi, c'è la signora Crespi che ha diretto il Corriere, eccetera, però anche lì poi ha lasciato il Corriere e è andata a fondare un'azienda biodinamica sul Ticino perché le piaceva questa cosa. Quindi, cioè, anche le nobili e le grandi borghesi poi hanno seguito le proprie passioni, anche questo è molto bello. Ma appunto dicevo, il capitolo prima era le aristocratiche e non potevano mettere anche le popolane, anche perché le mie origini sono più popolane che aristocratiche, quindi mi sembrava giusto. E siccome appunto le mie origini sono nella valle del Po, dove c'è il riso e dove ci sono state molte filature, le filande con queste ciminiere che mi ricordo da piccola che sventavano nei paesi, allora con grande passione ho scritto anche delle mondine e delle filatrici, perché sono state donne costrette a dei lavori con fatiche inimmaginabili in ambienti malsani che purtroppo ora vediamo ancora nei paesi in via di sviluppo, ma qui da noi fortunatamente no. Lavoravano 15 ore al giorno da quando avevano 12 anni in condizioni disumane, però donne che, mi riferisco in particolare alle mondine, se vi ricordate i loro canti, donne che hanno sempre comunque trovato un'unità, un coraggio di stare insieme e di fare delle battaglie insieme. Per esempio le mondine hanno fatto la battaglia per l'orario di lavoro, no? Cioè ci sono i canti, se a 8 ore mi sembrano poche, e hanno ottenuto anche dei risultati. Quindi insomma anche in queste popolane mi è piaciuto molto questo aspetto di non perdersi mai d'animo, non perdersi mai d'animo, cercare di, con dignità, di andare avanti e di portare avanti anche i propri ideali, i propri sogni, insomma i propri diritti. Poi certo, alcune non hanno ottenuto niente, alcune hanno ottenuto qualcosa. Bene, grazie Lida. A questo punto penso che sia anche un po' il momento per voi. Ti ricordi che voglio sempre... Sì, questa è la chiosa finale. Ci tiene molto a leggere un brano che non è del mio libro, che credo abbastanza conosciuto qui a Bolzano. Sì. Ti lasciamo quello che è la chiosa finale, te lo lascio su quello. Sì. Anzi, approfitto anche per fare la pre-chiosa, se mi vuoi passare il libro. Sì. Facciamo anche un piccolo spot con Nadia Santini, anche nuovamente da Lida, all'editore. Siamo appena usciti con questo libro che ha tutt'altro taglio, però nuovamente emerge la passione di Alida per il viaggio. Io viaggio con te, e sono una serie di spunti sempre molto originali, sempre insomma, spesso e volentieri con proposte inconsuete anche per le mete più conosciute, pensati per i viaggi di coppia. Insomma, poi alcuni sono un po' più romantici, altri si possono fare anche con un amico. I primi tre che ho regalato ho beccato tre single senza saperlo. Comunque sono posti belli a prescindere, ed è una guida di viaggio inusuale, con degli spunti veramente originali, ben raccontati, resi anche un po' narrativi, come un po' anche nella qualità di scrittura di Alida. Prima di lasciarvi la chiosa finale, appunto, volevo sentire da voi questo un po' il momento, se avete delle domande, domande, delle curiosità, delle domande da porgere all'autrice, vi invito a farlo. So che è sempre difficilissimo in questo momento, però vediamo se... Quando io ero a scuola non lo facevo mai questa domanda. Ma assolutamente nessuno fa le domande, poi finisce, ci alziamo, e mentre ci alziamo c'è un quattro persone che fanno quantità di... È così. Solitamente così. Tanto sapete che insomma, la situazione è abbastanza informale, che se effettivamente avete qualche domanda o curiosità da porre all'autrice lo potete fare anche dopo, ci sarà anche il firmacopie per chi volesse acquistare il libro. E appunto nella chiosa finale effettivamente è una chiosa che credo al di là del brano in sé, che è un brano interessante, curioso, devo dire anche molto divertente, è la figura di Lidia Menabace, che appunto lascio ad Alida di raccontare. Ecco, riprendo un attimo il mio libro, perché la dedica è stata scritta prima di scrivere il libro, forse si scrive dopo, ma io l'ho scritta prima e ve la leggo così, insomma, un po' da vanitosa. Ancora non l'avevi dedicata a Nadia Santini, no? Non è dedicata a Santini, no. Allora, a mia madre, alle mie amiche più care e soprattutto a mia figlia, alle giovani donne come lei che oggi più che mai hanno bisogno di un incoraggiamento. Abbiate fiducia in voi stesse, abbiamo fatto e faremo sempre la storia di questo paese, non solo. Quindi questo libro è stato scritto proprio per loro. E allora qui ho iniziato e vorrei chiudere parlando di giovani donne che hanno bisogno di coraggio, e il coraggio passa soprattutto se loro hanno una certezza, se si sentono forti, se hanno un lavoro, e con una disoccupazione giovanile al 40% i tempi si possono definire bui senza esagerare. Volevo leggervi proprio 10 righe di Lidia Menapace. Lidia Menapace, che io ho avuto la fortuna di incontrare un paio di volte, che vive a Bolzano da 60 anni e che adesso ha 93 anni e ne dimostra la metà, non so se qualcuno di voi l'ha incrociata. Viaggia per il mondo, non solo per l'Italia, a portare avanti le sue battaglie. Lei è pacifista, ambientalista, femminista, tutto quello che volete lei lo è, oltre che essere stata una partigiana, eccetera eccetera. E l'ultimo libro che ha scritto è una piccola biografia pubblicata dall'editore Manni, e volevo leggervi questo pezzettino sulle giovani donne. Alle giovani, non le vecchie. No, ma anche questo, no, perché ieri c'era al Museo di Merano una mostra, non quella permanente, sulla terza e la quarta età. Allora ho letto una cosa sulle vecchiacce, perché Lidia ha fatto il club delle vecchiacce, perché ha detto insomma adesso facciamoci sentire, non è che ci potete rottamare così, e quindi c'è tutto un piccolo capitoletto sulle vecchiacce. No, quello che vorrei invece leggere oggi è sulle giovani. Posso? Per chiudere. Allora, qui è Lidia che ha più o meno 20 anni, quindi adesso ne ha 93. Dice, passarono un paio d'anni e mi fidanzai. Questa volta ufficialmente, come allora si usava, con visita delle due famiglie, scambio di doni, eccetera. Mi fidanzai con uno psichiatra bravo e intelligente, persino molto ricco. Quando stavamo già parlando di date per le nozze, venne fuori con generoso entusiasmo e mi disse: ti metterò su un salotto letterario. Cosa? Dissi: ma sei matto? E alla sua domanda, stupita: non vorrai mica lavorare, Lidia? Risposi che sì, volevo proprio lavorare. E ruppi di nuovo tutto, questa volta con assai meno dolore, perché si era già fidanzato una volta. Dopo questa esperienza dovevo prendere un orientamento. Ci pensai, poi disse a mia madre: io non mi sposo, gli uomini sono scemi, dicono che mi vogliono bene e non capiscono nemmeno come sono fatta, io non mi sposo. Mia madre replicò: fai quello che sei sicura di voler fare, e aggiunge a mio beneficio il codice etico esistenziale da lei pensato per le figlie. Lidia aveva anche una sorella. Ragazze, disse la madre, siate indipendenti e poi fate quello che volete, prendete marito, non lo prendete, lo lasciate, lo cambiate, l'importante è che non dobbiate chiedere i soldi per le calze, perché non si può essere indipendenti nella testa se si dipende nei piedi. Questa frase per me rappresenta uno straordinario codice etico perfetto di una madre verso una figlia, giusto e chiaro. Cioè, questo è un libro meraviglioso che è Lidia Menapace, pubblicato da Manni. Potevo farlo. Sì, Manni è un editore bravissimo, un editore per stato di Lecce, quindi non è neanche tanto facile riuscire a esportare cultura da Lecce. Bene, grazie a tutti, grazie per questa bella serata. Spero di avere...